Solo per te, solo per te, i miei capelli. Quindi avvivo la prima volta della mia vita, aria di festa. Con quel giorno, forse stasera, vi rivedrò. Guardo una rosa, la prima rosa della mia vita, sul mio vestito per i diochi la metterò. Aria di festa, con quel giorno, forse stasera vi rivedrò. Come on.